La storia e la memoria di Dino Pesole. 14 febbraio 1984, 14 febbraio 2014. Sono da poco trascorsi 30 anni da quell'accordo che ha segnato una tappa fondamentale nella storia delle relazioni sindacali del nostro paese. Stiamo parlando del cosiddetto accordo di San Valentino, sottoscritto con il governo Craxi da UIL e CISL. La decisione di tagliare 4 punti di contingenza, vale a dire l'aggancio automatico delle retribuzioni all'inflazione, creò una spaccatura profonda nel movimento sindacale. Da un lato UIL e CISL, dall'altro la CGIL, allora guidata da Luciano Lama, che non firmò quell'intesa. La stessa CGIL, ricordiamo, si spaccò al suo interno tra la maggioranza comunista e la componente socialista di Ottaviano Del Turco. Scontro che dal sindacato poi si trasferì in sede politica con il segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, che si oppose fermamente all'accordo, tanto da proporre l'anno successivo, il 9 giugno del 1985, un referendum abrogativo che venne respinto con il 54,3% di no contro il 45,7% di sì. La trattativa che si chiuse nel giorno di San Valentino del 1984 ruotava attorno all'adozione del meccanismo proposto da Ezio Tarantelli, che faceva leva sulla rideterminazione dei punti di scala mobile per favorire la discesa dell'inflazione. Dopo un lungo negoziato, si arrivò a un protocollo in cui il governo prometteva il blocco di prezzi e tariffe per 2 mesi, la sospensione degli scatti dell'equo canone per tutto il 1984 e la restituzione del fiscal drag dall'anno successivo. Contestualmente veniva previsto appunto il taglio di alcuni punti di scala mobile. Netta la spaccatura del sindacato, con la CGIL fermamente contraria all'accordo. Il governo Craxi recepì comunque l'accordo con un decreto legge. Erano anni di alta inflazione che il governo Craxi decise di contrastare, bloccando il meccanismo di allineamento automatico dei salari all'inflazione. Strada che poi venne seguita sia dalle intese del luglio 1992 con il governo Amato e soprattutto del luglio 93 con l'accordo sulla politica dei redditi del governo Ciampi, che avviò la cosiddetta prassi della concertazione. Bene, dell'accordo di San Valentino, sottoscritto appunto 30 anni fa, come dicevamo il 14 febbraio del 1984, parliamo questa sera con Giorgio Benvenuto, per diversi anni segretario generale della UIL, poi segretario generale del Ministero delle Finanze e ancora del segretario del PSI e poi parlamentare, ora presidente della Fondazione Buozzi. Buonasera e grazie per essere con noi, Giorgio Benvenuto. Buonasera. Ecco, Benvenuto ha scritto per l'occasione insieme ad Antonio Maglia il libro Il divorzio di San Valentino, così la scala mobile divise l'Italia, pubblicato dalla stessa fondazione Bruno Buozzi. Allora, parliamo un attimo di questo accordo, sono passati 30 anni, perché fu così importante? Fu importante perché ridusse l'inflazione. Noi avevamo un'inflazione a 2 cifre terribile che bloccava il paese. Il sindacato aveva la capacità di realizzare delle proposte e fece prima un accordo con Scotti, poi perfezionò questo accordo con il governo Craxi. E l'obiettivo della riduzione dell'inflazione venne realizzato e in contemporanea, allora era possibile, si determinò un controllo dei prezzi, delle tariffe, il blocco dell'equo canone e anche una conquista importante che era quella di salvaguardare le retribuzioni dal drenaggio fiscale, il fiscal drag. Quindi un accordo, lo dico anche in ritardo, lo avremmo dovuto già fare all'inizio degli anni 80, ma fondamentale, necessario, tant'è che quel meccanismo su cui si espresse una forte divisione, una forte lacerazione dal punto di politico non rimase un fatto isolato, perché negli anni successivi portò ad ulteriori accordi, fino a quando, con Amato prima e Ciampi dopo, si realizzò un accordo di concertazione, di vera politica dei redditi, dove si metteva sotto controllo il salario, e questo accordo fu siglato, voluto da tutto il movimento sindacale, ecco, anche dalla CGIL. 30 anni fa, appunto, però la firma dell'accordo di San Valentino provocò, come ricordavamo, una profonda spaccatura sia a livello sindacale ma soprattutto a livello politico. E dunque l'iniziativa che assunse Berlinguer, che poi fallì perché il referendum abrogativo non passò, a cosa si deve? Probabilmente a motivi che forse con la scala mobile avevano a che fare fino a un certo punto. Io dico di sì, anche nel libro riporto tutta una serie di testimonianze, sì, e di ricordi, ma anche di memorie che sono state fatte da autorevoli dirigenti del Partito Comunista. E lì ci fu proprio una pregiudiziale politica. Io sono convinto che Lama avrebbe firmato l'accordo, come aveva fatto con Scotti e come fece Trentin all'inizio degli anni 90. E non ci riuscimmo, facemmole con Carniti le carte false. Mi risulta che vennero fatte anche da Craxi, da De Michelis, perché noi pensavamo che quell'accordo non era un accordo per rafforzare una leadership, era un accordo che rafforzava il paese e lo faceva uscire da una situazione terribile nella quale l'inflazione era al di sopra del 20%. Tentammo di tutto per fare questo accordo, non ci riuscimmo, e tentammo anche di evitare il referendum, non ci riuscimmo nemmeno, anche se io sono convinto che se Berlinguer non fosse morto tragicamente nel 1984, subito quando era ancora acceso il dibattito, io penso che forse Berlinguer stesso avrebbe fatto in modo che quel referendum non si facesse. Invece poi il referendum dette una indicazione chiara, cioè la gran parte degli operai stessi votò a difesa dell'accordo nel Veneto, in Piemonte, in Lombardia, dove è più forte la presenza operaia, e lì il risultato del referendum fu di credere e di confermare quell'accordo che era stato sottoscritto. Beh, veniamo al libro. Nel libro voi stessi scrivete: non troverete un elenco di date, piuttosto le donne, gli uomini protagonisti che interpretarono quella vicenda. Quindi, in sostanza, il vostro è un tentativo anche per passare con pensieri e parole, come scrivete, per raccontare una delle spaccature più drammatiche, se vogliamo, del movimento sindacale degli ultimi anni. Sì, noi abbiamo detto, non abbiamo voluto scrivere un libro in sindacalese o in politichese, come dire, un libro in umanese, nel senso di descrivere come i singoli dirigenti, le persone che avevano maggiori responsabilità, vissero quella fase, quindi entrare anche in quello che erano i pensieri, le preoccupazioni, le riflessioni, le aspettative dei sindacalisti, dei politici, insomma di chi era un protagonista di questa battaglia. Guardare le persone, non solo i fatti. È un monito anche per i giorni che stiamo vivendo noi, probabilmente, raccontare quei fatti che pure furono laceranti con lo sguardo retrospettivo può servire anche a analizzare poi alcuni dati che sono incontrovertibili, perché il valore di quell'intesa ormai non è negato da nessuno. sì, oggi non c'è più nessuno che dica che era sbagliato quell'accordo. Però quello che è importante è riflettere e parlare dello stato d'animo, delle decisioni, dei tentativi, un po' come dietro le quinte, perché molte volte quando si descrive la storia è un susseguirsi di date, di contratti, di scioperi, ma riportare la persona di come sono state fatte certe scelte, come si, di quelli che sono stati gli sforzi, di quelle che sono state le intuizioni, ma anche gli errori. Ecco, dare una umanità ai fatti della storia, un po' quello che molte volte avviene bene nella cronaca. Bene, allora molte grazie a Giorgio Benvenuto, lo ricordiamo, ha scritto insieme ad Antonio Maglie questo interessante libro pubblicato dalla Fondazione Bruno Buozzi che si chiama Il divorzio di San Valentino, così la scala mobile divise l'Italia. Buona serata e grazie ancora. Grazie tante.